English Bit di Giulia Crivelli. Reshuffle. Trump reshuffles his staff in his own image. Il Washington Post ha titolato così l'articolo in cui si riprendeva l'anticipazione data poche ore prima dal Wall Street Journal. Donald Trump scompagina il suo staff a sua immagine e somiglianza, potremmo tradurre. La domanda alla quale il quotidiano della capitale americana, il più importante dopo il New York Times, voleva rispondere è: Why did Trump shake up his campaign team? Perché Trump ha deciso di imporre una svolta, un forte cambiamento alla squadra per la sua campagna elettorale? I verbi che ci interessano e che sono in parte sinonimi sono quindi to reshuffle, regolare, e to shake up, irregolare, shake, shook, shaken. Per quanto riguarda il primo, possiamo dire ad esempio shuffle o reshuffle the cards and deal out 7 of them to each player, mischia le carte e danne 7 a ciascun giocatore. Oppure, con più o meno lo stesso significato, I shuffled the documents on my desk, ho spostato, ho cambiato posizione alla maggior parte dei documenti che erano sulla mia scrivania. Poi c'è un significato diverso, si può dire infatti he shuffled across the room to the window, andò verso la finestra strisciando i piedi per terra. Se usato come sostantivo, reshuffle indica anche un particolare tipo di ballo in cui si fanno piccoli passi senza mai sollevare del tutto i piedi dal pavimento. E shuffle e reshuffle sono usati anche, come penso molti di voi sappiano, nel gergo musicale per indicare una playlist o comunque una canzone composta in modo non necessariamente ordinato da parti di altri brani. To shake up, invece, è un phrasal verb che significa scuotere in modo deciso. Se riferito a una ristrutturazione aziendale, è quasi sinonimo di shake out. Si parla ad esempio di un management shake up, quando vengono cambiati, in genere all'improvviso, i vertici aziendali. Poi c'è shake down, che significa anche perquisire. A police shake down of the apartment, una perquisizione da parte della polizia dell'appartamento. Come sostantivo abbiamo naturalmente lo shaker dei baristi, che non viene neppure tradotto, non so nemmeno se sia mai stata pensata una traduzione in italiano. Ma possiamo anche dire to get the shakes, cioè farsi venire i brividi, o appunto qualcosa che ci fa venire i brividi. To shake off, altro phrasal verb, significa invece to get away from somebody who is following you, liberarsi di qualcuno che ti sta seguendo. E l'idea di off dà proprio l'idea di toglierselo di torno, anche in modo più colorito.